Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, benvenuti a Smart City. Questa sera ci occupiamo di contatori intelligenti. Parliamo di un progetto, si chiama Meteron, è un progetto finanziato dal settimo programma quadro della Commissione europea che vede impegnati ricercatori di RSE, ricerca sistema energetico. Abbiamo qui di RSE l'amministratore delegato Stefano Besseghini. Bentornato a Smart City, sei stato nostro ospite tante volte ormai. Grazie, buonasera a tutti. Allora, contatori intelligenti, ma noi andiamo molto fieri del fatto che in Italia ci siano già 35 milioni di contatori intelligenti nelle case degli italiani. Sono i contatori elettrici grazie ai quali l'Enel, per esempio, toglie l'elettricità se uno si dimentica di pagare la bolletta, ma poi è anche possibile fare una fatturazione più precisa, si può interrompere il flusso elettrico, penso anche per ragioni di sicurezza se si verificano problemi, o quantomeno è possibile in teoria farlo. Però non è che scopriamo che adesso dobbiamo cambiarli e metterne di ancora più intelligenti, Besseghini. No, direi che non abbiamo a brevissimo questo onere, anche se certamente tutta la componente, diciamo, normativa che l'Europa sta sviluppando, anche in un'ottica di sempre migliore efficientamento del nostro sistema elettrico e di migliore integrazione nel mercato elettrico, che poi è una fonte di potenziale risparmio grazie alla concorrenza significativo, imporrà una strada di evoluzione anche di ulteriore. Ecco, qui si parla di contatori di seconda generazione. Questi 35 milioni di dispositivi presenti sul territorio italiano hanno già molte delle caratteristiche, almeno di base, di questa seconda generazione. Direi di sì, anzi direi che una delle cose per cui l'Italia oggettivamente può dire di essere in una buona posizione internazionale è che quando venne progettato, pensato e realizzato il contatore elettronico che adesso abbiamo in casa, già si fecero scelte, tra virgolette, coraggiose, o comunque di un sistema evoluto. Per cui, certamente, paesi che in questo momento sono follower, sono all'inseguimento, devono dotarsi come minimo di quelle che sono funzionalità che noi già possediamo. E questo ci rende più tranquilli anche rispetto alla prima domanda. Insomma, non dobbiamo cambiarli, perlomeno non subito. Ecco, questi contatori, queste funzioni minime che già i nostri contatori hanno, sono diverse. La più importante è la lettura in tempo reale dei consumi energetici, che consente per esempio di applicare le fasce di tariffazione, che consente la disconnessione e la riconnessione remota, la limitazione della potenza, la registrazione di servizi, eccetera, eccetera. Quali sono le caratteristiche aggiuntive di cui si sente il bisogno? Quali sono i punti critici oggi dei contatori che abbiamo già? Beh, sicuramente, come tutto il sistema è influenzato dalla generazione distribuita, quindi da una sempre maggiore presenza di flusso contrario, quindi di persone e quant'altro. Che immettono energia nella rete, questo contatore, diciamo, 2.0 dovrebbe ottimizzare anche la gestione di questa bidirezionalità di flusso. Poi c'è un grande tema che è quello dell'integrazione di funzionalità differenti. Il contatore potrebbe diventare oggetto di più misure e di servizi anche differenti. Non solo, potrebbe implementare modalità di pagamento del servizio più evolute, non necessariamente a bolletta, ma magari con un sistema prepagato, con un sistema che magari deriviamo dalla più dinamica e vivace dinamica della telefonia. Della telefonia, tipo la scheda prepagata per pagare l'energia elettrica. Per una seconda casa potrebbe essere. Ecco, tutti scenari che vedono sempre un maggior coinvolgimento dell'utente, che è un po' il nuovo paradigma. Ad esempio, una cosa molto banale ma importante: la rete dà segnali di prezzo, cioè la rete è in grado di dire il costo dell'energia in quel momento. L'utente potrebbe decidere di azionare, di reagire a questi segnali di prezzo in maniera differente, cambiando il comportamento della propria casa, avendo questa informazione su un display, oppure su un televisore, oppure sul computer. Ecco, l'altro tema che importante, diciamo, è legato al fatto che necessità simili ci sono non solo sul mondo dell'energia elettrica, ma per esempio sul gas. Anche qui si sta ragionando su contatori del gas intelligenti. Un domani c'è l'acqua, e qui emerge il tema della possibilità di fare dei contatori intelligenti a 360 gradi. Come siamo messi? Questa è una delle specifiche. Direi che questa è certamente una frontiera che sullo sfondo come scenario la gente ha presente ed è un tema che si sta affrontando. Quello del gas lo vedo come quello più immediatamente, diciamo così, pronto più urgente da affrontare. Certamente l'acqua sta un po' dietro l'angolo, se vogliamo. C'è un altro aspetto che è quello dell'apertura dei contatori intelligenti, nel senso che apertura in termini di protocolli e di sistemi di comunicazione che questi utilizzano. In questo momento, stante anche la relativa unicità, diciamo così, del caso italiano con l'Enel, 35 milioni di è un problema contatori. Che fino adesso non si è molto affrontato, ma è un po' la situazione dei sistemi operativi proprietari e di quelli open source. Quindi ecco perché alcuni progetti, ad esempio, si chiamano open meter, cioè immaginare contatori in cui il sistema di comunicazione, i protocolli, eccetera, sono aperti, condivisi e quindi sia possibile per altri servizi integrarsi e innestare le proprie necessità di servizio. È evidentemente un tema molto complesso. È un po' il tema, diciamo, dell'open data, cioè di produrre dati in modo che possano essere facilmente comprensibili a tutti, anzitutto all'interno dello stesso settore, cioè un utente cambia fornitore, non deve cambiare contatore per poter avere i servizi intelligenti. Pacificamente, e mi pare che peraltro, ad esempio, anche in questo caso l'Italia si sta dimostrando un soggetto molto attivo e anche molto efficace. Abbiamo un'autorità che sta lavorando molto su questa possibilità di una vera interscambiabilità di operatori. L'acquirente unico ha recentemente iniziato il lavoro sul sistema informativo integrato, che poi è il substrato informativo per gli utenti, che rende possibile tutto questo. Il contatore è poi l'oggetto, evidentemente, che in casa declina operativamente questa possibilità di interoperabilità. Grazie Stefano Besseghini. Grazie Maurizio. Anche per questa sera abbiamo concluso. Appuntamento a lunedì.